La luce del giorno e nella dura capire.

Aspettando che arrivi il momento per prenderti ciò che ti è stato rubato. Vattene via di qui, quello che è stato e non c'è tempo per fermarsi ancora ad aspettare un treno. Non arriverà. Thank you.

sono qui con te. Se tu mi cercherai, sarò sempre in te. Ma perché piangi se sono qui con te? Se tu mi cercherai, sarò sempre in te. Se sentire l'acqua, il vento, il mare, ma molti mi sento. Se sono qui con te, se tu mi cerchi.